attenzione. Oltretutto, se tu guardi loro, c'erano anche i corsi predisposti, per esempio, non so, hai visto sulla foto, perché no, c'è il cartellone grande, la città controllata, e come si possono mettere a 400 metri in un po' di quello? Se non c'è il cartello, come fai lo stesso? La controversia non può essere rilevata. Ma vabbè, quello già lo sapevo, quello del cartello. Ma sono stato attento dove c'era la cosa, sono stato attento dove c'era quella fissa dietro la curva, con la macchinetta fissa che c'è lì, sono rallentato. Poi è bello che non si sentivano autisti, ho chiamato a Gigi, sapevo che c'era Gigi a Cagliari, solo che lui è partito a me presto e non ho sentito, mi sono fermato alla Basalta, devo aspettare una coppia di amici, di mio cognato con mia cognata, che venivano da Olbia, li avevo aspettati lì alla Basalta, al Mivio. Poi mi ha detto, dai, spostatevi più avanti che siamo dove c'è il rifornitore, che siamo arrivati lì. Noi siamo andati più avanti, qui siamo arrivati al rifornitore, abbiamo girato e siamo fermati a berci una cosa, e era la strada e bevendo birra. No, tu fai un parolone, lo sai, te la sento male, ma per il primo bar tu richiedi di te la passata di bello e arrivi sino all'altro bar, dove ci sono i semafori proprio all'angolo. Sì, ho capito. Ecco, quello era l'unico semaforo di... Mi sa se dove c'era installato il coso per passare il corso. Se tu vai adesso non ci sono più i rilevatori, perché sono stati tutti, perché la rilevazione non può essere fatta più dietro, se non c'è dietro un accertamento. E sono stati tutti, prima lì li fregavano me, ma se non conosco li fregavano. Adesso sono stati tutti, perché tutti i rilevamenti fatti senza accertamento tra l'altro c'è una cosa che i vigili urbani quando devono fare questo rilievo lo stesso devono chiedere autorizzazione alla stradale, perché è l'unica che può autorizzare, perché la stradale è l'unica che può installare questi cosi, se può dare la cosa agli altri e può darla, però non deve essere rilevata all'istante. Infatti se tu li vedi, se qualche volta lo fanno adesso, se tu li vedi che hanno i due in moto, nel caso tu passi, quelle moto ti seguono e ti fermano. Campagna, quello di loro c'erano le pistole, quelle tipo pistola che ti prendono a 150 metri di distanza. Ma non ho visto che l'italiano Marrone aveva trovato la Ricci su queste cose, perché stavano facendo troppe cose, cioè che questi rilevatori erano dappertutto, infiltrati in mezzo agli alberi, fatti all'inganno, no? Ed è una legge ingannevole. Poi se Marrone aveva visto le Ricci che dovevano essere trattati tra le temuole, ascendente che discendente, li ho visti io, uno da una parte col furgone e gli altri dall'altra, ti butti da una parte e dall'altra, dove il bisogno che tenga. Ma per male di questo peso si mettono le fumettere, ci sono gli alberi, c'è il fresco, non si mettono da una parte, che c'è il sole, palla, sono furbi, dopo la parte ci sono gli alberi, le fumettere si mettono. Ma lì in passato, quando non c'era questa regola del cartello, avevano una pubblicità e gli avevano le gomette di muri. E io, prima di vedere, anche 3 o 4 per volta le fermavano. Adesso invece c'è il cartello, come arrivano lì, lo mettono proprio, guarda, 10-15 metri non fanno pattuglia. Dove praticamente sotto il cartellone luminoso, no, lo stesso che rileva la velocità. Mettono il cartello lì e loro sono il rifornitore. Ma a parte di questo periodo lo facciamo sotto, io non lo si vedo, ma in questo periodo non si mettono. Maledizione. Una volta noi ci siamo fermati all'Unesole, a me e mia moglie con Marco. cintura, c'era solo mia moglie. Certo. Come mai c'è stata la signora con la cintura e voi? Perché io ho avuto un incidente, c'ho le costole fratturate e se mi metto la cintura mi fa male, che cazzo sappia cosa dici? E dice il bambino, anche lui dice che ha avuto, ho detto, e il bambino probabilmente se ne ha tolte lui, io glielo ho messo, e poi se lui se ne ha tolte, Marco, quante volte ti ho detto di non togliere le cinture? Lui, papà, ma io veramente, se spaventato al punto che adesso come se le macchine si muovono subito le cinture, lui ha detto la prossima volta ricollatevelo le cinture. Il documento ce l'ha per questo incidente che ha avuto, guarda, appresso la verità, però non c'è problema, dice vabbè, vado a fare e siamo andati via. Oh, Marco era sul seggiolino dietro e io stavo guidando e mia moglie a fianco. Ah, perché se ero seduto dietro non poteva dire niente. Perché non sono obbligato di dietro adesso? No, ancora no. Io pensavo di sì, che fosse obbligato. No, ma comunque in ogni caso metterle non guasta mai. Vabbè, che in certi casi le cinture ti ostacolano e basta. Hai visto quelli che hanno toccato quella roccia vicino alla roccia dell'elefante, corse al mattino e cambiato fuggurava che sono molto volenti susi. Ponte mia cognata qui non so. Ma poveracci. Purtroppo, e poi siamo passati un po' solo come no. Ma così è. E quello è chiuso la strada già. E forse tutto in casa. Ma quello è chiuso il traffico, c'è la strada nuova adesso, per non fare. Sai com'è, no? È aperto soltanto per i mezzi di soccorso. Che ci sono le rocce pericolanti che erano caduti male sulla strada e c'è l'altra più giù a 2 km che è il paese, questa è la strada nuova che hanno fatto appunto perché quella è pericolosa per questi massi. Quella sicuramente hanno trovato qualche vaso che sporgeva e hanno fatto la curva larga e cose, e hanno toccato con lo serbatoio lì. Loro non sarebbero fatti niente, il fatto è che ha pigliato il fungo la macchina. Ah, ci sono dei massi che molto anni fa erano caduti nella strada, no? I massi più grandi li hanno spostati proprio. Alcuni sono rimasti proprio nel filo della strada, loro probabilmente a causa del sonno tutta la notte in giro. Probabilmente a causa del sonno sono andati a cozzare proprio su questa roccia che era lì nel filo della strada. E probabilmente non ha funzionato neanche che stacca la benzina e la macchina si è girata per quello perché il colpo praticamente ha preso sopra il cofano, no? Ha preso la parte sopra, quindi i dispositivi non sono partiti e per quello che sono rimasti anche incastrati in certe macchine, poi si bloccano gli sportelli, c'è un'occasione per verificare un po' più queste cose di sicurezza e che gli sportelli che non sappiano che le macchine non si può più. Era un casino. Era destino comunque, era destino perché a volte ti chiudi, facci la macchina se avvi le luci, guardando che mi levo così, casoli com'è, per carità. Dice che c'erano, che hanno sentito delle grida disumane. Qua che erano sono morti per l'incidente, per l'incidente era un incidente banale, che non si erano fatte niente, si sono bruciati appunto perché si sono bloccati gli sportelli, infatti si sono bloccati gli sportelli e non riuscivano più gli sportelli. E per quel motivo che sono morti, le fiamme le hanno morti in 448 ed è per quello, proprio per via degli sportelli. Perché molte macchine, quando hanno l'impatto, sono fatti così anche se bloccano gli sportelli. Sono fatti esattamente con una legge che non so se non è tanto, perché prima queste macchine si aprivano il portiere e il passeggero si chiama fuori. Però adesso che hanno messo le cinture con la regola non devono avere più, invece il più della volta è quando hai anche un incidente di poco conto, si bloccano gli sportelli. Questo non lo sapevo. Diciamo che magari non c'era stata gente pronta a farli uscire. Che la volta della Woody Woody, che si è caputa da questa macchina, c'era tre ragazze dentro. Le ho fatte uscire una da dietro. Ho aperto il cofano di dietro, ho fatto uscire da dietro, l'altra l'ho fatta uscire dal finestrino, perché non apriva appunto lo sportello. Purtroppo loro sono passati anche, non possono, non passano tutti e quindi non è più frequentata la strada. Anzi, è passato un altro subito dopo di loro, quando però c'erano già le fiamme e non poteva fare più niente. Un altro che ha rischiato a passare, supposo non poteva passare, se la strada è chiusa non è frequentata, no? Se passava dall'altra è più frequentata. Ecco, sì, ma tante volte pensi di fare prima cosa, quando lo diamo di mezzo non vi arriva per pagare, magari c'è quello che non hai visto quello che tuffando, hanno messo anche su YouTube, quel ragazzo che tuffando dalla roccia per farsi vedere agli amici, cazzo, ha preso il lastrone che c'era sotto, ha sbagliato il lancio, diciamo, invece che andare più avanti è sceso dritto, l'ha preso prima lastrone che c'era sotto, poi l'ha preso l'altro e poi si è caggio di mare, ho gridato tutti quanti, poi lui è uscito dall'acqua tranquillamente e si è fatto solo qualche graffio come ha toccato la roccia, però niente di più. Yeah. No, mi stavo ascoltando per di sistemarmi la borsa per domani. Buonasera all'amico che è con te, che non ho capito chi è. Pierpaolo Vela 1, avanti. Sta capo, buonasera, mi ha ascoltato, Radio Vela da questa parte. Buonasera, Radio Vela, Antonello da Ossi, buonasera. Ma sì, ci ho sentito anche poco fa. Non ci sono stato di salutarti poco fa, ma ci siamo sentiti che avevi la radio un po' rauca. E io ho dovuto cambiare il microfono. Adesso c'ho la 12.30 accesa, va bene così o va bene così? No, andava bene, prima. Cos'è, aumento di segnale oppure ma lo stesso è più, dai, più comprensibile? Così è più fedele. Fedele? Papa, comprensibile, dopo ti sei abbassato, siccome è passato, ti sei abbassato il tempo e ti sei il segnale parecchio. Strano, vabbè, dipende sempre apparato a apparato, invece col gas si cambia un po' tutta la situazione. Già mi confermi tu, doppio rum? Con gas la voce è molto più squillante, più strilla. È vero, ogni apparato ha la sua, come si dice, particolarità e... adesso mi viene la parola. Comunque, il suo modo di essere anche l'apparato la cambia sempre. Sto cercando un Galaxy Turbo. Qualcosa che ho guardato su internet ma non l'ho trovato. Io avevo l'intenzione, guarda, io l'ho portato ieri da Pomponio e me l'ha sistemata, era una cazzata per sistemare. Adesso è lindo come le mutande appena lavate, perfetto, bisogna solamente regolarlo perché dà questo difetto del ferro e power, e poi dall'interno che deve essere regolato ed è perfetto. Però sto pensando boh di vento, non lo so. Perché? Non lo so, boh, volevo acquistare qualche altro apparato, sempre con le bande laterali. Ho visto quest'altro apparato, se non mi ricordo il nome, è il Superstar 3006, lo stavo guardando, che ha le stesse funzioni di questo apparato, tranne il frequenzimetro incorporato, tutto lì. Compra il 3009, c'è anche il frequenzimetro, e c'è il modello nuovo che è tutto il display blu. Esatto, e non viene neanche tanto. Io ho chiamato ieri a questo Giovanni Spinozza, comunque c'è un giornale che esce mensilmente della CQ Elettronica, e me lo sta dando in offerta a 150 euro. Già lo so, sì, quello lì va bene, è vero, però qua. Il modello nuovo è quello lì, il Superstar. Sì, quello va benissimo. Ascolta, tu che quando il segnale è di radio, come sta arrivando lì? Io qui sono Santiago di 7, è una radio di 5, molto comprensibile, con questo eco molto molto leggero. Kappa, così. Sì, va bene, va benissimo, una bella modulazione, molto comprensibile. Andiamo, andiamo bene, va. Superstar, io sono il Superstar, ma è lui che lo c'ho. E ti sei trovato bene con quell'apparato, sì, già diciamo, ha una bella modulazione. Ah, guarda, per me è favoloso, io non tiro anche col carro più 3 e va grande. Io c'ho, per quanti c'ho il Superstar, il 360 FM. Ma è così, io ce l'ho presente, mi adesso prendo il giornale e ti dico cosa sta dando in offerta, lui dice per un mese e mezzo, due, una cosa del genere. E che l'ho telefonato e mi sembrava abbastanza gentile, dice, perché molti radioamatori della CB in Sardegna chiamano a lui, dunque bene o male, dice ha un bel giro. Lui sta dando adesso questo Superstar 3009 che ha 200 canali in AM, 240 canali in AM, in FM, in USB e LSB, 200 canali in CW, è disponibile anche il display blu. E questo lo sta dando a 150 di nuovo. Cosa ho capito, scusa? 150 euro. Troppo. Troppo? Ma è nuovo, mi Pierpa. Come nuovo? Usato? No, nuovo di zecca. No, nuovo. No, se è nuovo lo prendo. Non lo prendo, no? Prendilo, se è nuovo sì, 150 sì. seconda mano. Poi c'era quel Super Jumpix 2000, che questo spara 50 watt, 50 watt in tutte le bande, dice, col frequenzimetro. Questo pare ne voleva sui 220-230 euro. Ciao, quello lì, come lo voleva, ce lo perde. Perfetto, adesso guarda, se boh, se riesco a vendere il Galaxy, mi prendo questo Superstar. Che cosa è? Come, scusami? Il Galaxy, che modello è? Il Galaxy Saturn 5 stelle, perfetto, senza graffi, revisionatissimo ieri, che poi alla fine è una cazzata, io non la so mettere le mani, è una regolare, una cosa dentro, come l'ha fatto. Col microfono originale, Galaxy Saturn con 5 stelle, nuovo, lindo, perfetto. Senti, in soldi? Io l'ho fatto valutare, c'è un 200 euro, non di più. Oh. Quanto lo vuoi dare? È regalato. Quanto? Ho detto che è regalato. No, è quello il prezzo del pacco. Io sempre così li ho pagati. Se senti qualcuno che lo vuole, viene a casa, lo prova, lo smonta, poi se quello si apre un pugno, chiedi a lui, perché ce l'aveva lui sotto mano, e me l'ha detto che è perfetto, l'ha controllato tutto, i finali sono tutti originali, mai toccati, perché si vede che c'è la una specie di quella tinta rossa in mezzo alle viti ai finali, no? Si vede quando tu li svitti che si tagliano, per dirvi, ne accorgi se qualcuno gli ha messo le mani addosso. È tutto originale, senza toccarli una virgola, non c'è neanche un graffio, illumina tutto perfetto, tutte le lampadine funzionano, è perfetto, perfetto, perfetto, è anche allineato. Se senti qualcuno che lo vuole, non è un problema, viene a casa, lo controlla, lo prova, lo apre, non c'è nessun problema, non scambia niente. Come ti sto dicendo, è... Io già di Chiaramucci, magari lo vuole lui perché sta piazzando la cosa in casa. Ma io glielo ho detto, dice che lui l'ha trovata a 90 euro. Boh, mi sembra strano un apparecchio così, dice, a 90 euro su internet. Sempre sperando che proprio nelle vacanze non gli arrivi un cantone, oppure non funzionante. Allora, a Svizzera che sono 250 euro, quella che io lo seguo, e me, quindi, sono 250 euro, ce ne sono due, sono tutti e due a 250 euro. Il prezzo giusto è 200 euro, io dico questo, li ho sempre presi a 200 euro, ne ho avuto 5, tutti quanti a 200 euro li ho presi. Quindi non è che 200 euro è il prezzo giusto, però per essere 200 euro deve essere un apparato a posto, come il tuo, se tu stai dicendo che a posto vale 200 euro. Allora quando li vendeva le lire costavano quelli lì la bolletta di 870.000 lire. E non è poco, e poi se uno diciamo, dai, a me sicuramente non mi conoscete né in verticale per dire, poi giustamente lo dice chi è Antonello, per dire, Antonello di Ossi, uno va, può chiedere direttamente a Pompunio, se voi lo conoscete in verticale, vi fiate di lui, ce l'aveva lui in mano, ripeto, ieri sera alle 2:30, 3 era a casa sua, e mi ha detto questa storia qua, tutto lì, niente di particolare, controllato, e mi ha detto che è perfetto, non lo zecca, poi uno se lo conosce, lo chiama e glielo dice, non mi piace prendere in giro le persone, ecco, tutto lì. Poi se qualcuno che lo vuole, 250 euro lo sto dando, se lo portano via, non è un problema. Ragazzi, non c'è problema, se sentiamo qualcuno, a me non serve perché io ce l'ho, se no te l'avrei preso io, ma no, ce l'ho già, ed è questo che sto usando. Trovo questo gatto, la parola di quello. E quale? Questo lo sto usando. Superstar. No, questo non è Superstar. Boh, io neanche lo conosco. Quello che stai usando tu. Questo è l'87. L'87, boh, non ce l'ho presente, ma guarda, io ce l'ho adesso in questo momento, Sto usando l'ANA 68. Guardo, l'ANA 87 mi hai detto, ma c'è anche le bande laterali. Quanto fa questo? Anche di più. Ma sempre tu o ero oppure ha passato diverse mani? No, questo non era mio. Non era mio, è passato diverse mani, un'altra mano è passata. Però è questo che ne deve tirare altre due di quelli. Ma se vuole mercantare che vedo un po', non ce l'ho presente com'è questa para. Tu lo metto l'Alan 68, no, che ne metto? Alan 87. Alan 87, sì. Ma non trovi come questo al catalogo, no? Non li ho modificato, Antonio. Modificato? Boh, adesso vedo un po', perché ho due cataloghi, uno del 2010 e l'altro del 2011. Dunque, adesso guardo un po', Alan 87, vediamo un po' com'è, non ce l'ho presente. Ma non trovi uguale, puoi trovare la fotografia precisa, ma uguale no, però. Cosa c'hai in più? Non lo so, secondo te. Ah, boh, bisogna vedere, vediamo un po', 48, 48, 78, no, non esiste qua, non c'è neanche più in produzione, qui mi fa vedere Alan 199 Alan, Alan 100 Plus, 48, Excel Multi, 78, Multibanda, Alla 48, Alla 2001, non riesco a trovare con questo, ma non riesco a trovarlo, Alla 68, Alla 68 mi ha detto, no, Alla 48, Midland 2020, 278, 2000 e 248, no, non c'è qua. E se c'è una volta non lo trovi. E quanto è vecchiotto questo? Non ha importanza essere vecchiotto, ma dico che non lo trovi, perché se lo trovi bisogna farlo fare, così come questo. E dimmi tu cosa gli hanno fatto a questa storia? A questa storia innanzitutto non lo senti che c'è la concorda. E la modulazione è abbastanza potente, quello è pienamente d'accordo, quello già non ci piove. Ma fai sentire l'effetto ecco con le ricotte. Questa è tutta la modificata in pratica, ecco, la modella originale. Cielo, che effetto c'ha? Ma quello c'ha direttamente nel microfono. No, no, no, no, questo è fatto dall'apparato, è fatto così. Non so, non li ho mai sentiti i carrellisti che modificano gli apparati, sono quegli apparati modificati. Questo c'è l'eco conto, con un attore, e c'è un sacco di cose in più del modello normale. Ah, ok. Su internet, allora l'Alan 87, vedo un po' e lo guardo, proprio non ce l'ho presente. Ah, te lo dico subito, non so che lo trovi, meno di 500 euro non lo trovi. Di 500, boh, no, non sono ignorante in materia su questo caso, ma sto dicendo che guardo su internet per vedere com'è la forma e l'apparato tutto quanto, capito? Non ce l'ho proprio presente. Perché a caso io ho per dire l'Alan 68, questo sto modulando, in macchina c'ho il 44, che è una meraviglia, il mio primo apparato, e poi questo Galaxy Saturn. Te lo vendere quello, Antonè. E quale? Il Saturn, poi il 3P. Dici? Ti dà una bella modulazione. Io, guarda, mio padre te lo posso dire. Io avrei conservazione e preso anche l'altro, però quello lì non l'avrei venduto, perché io l'ho venduto 5 volte, 5 volte me lo sono ricomprato. Perché è un apparato, boh, a me piace, mi sono anche appassionato, mi piace molto come apparato. Ma per carità, io ti ascolto tutti i consigli e poi valuto, non è che, diciamo, ti sto mettendo da parte, per carità. Già gli ascolto anche i tuoi consigli, problemi non ce n'è. No, sto valutando, sto vedendo un po' tutto lì. No, peraltro, so perché fatto stare, ti farò riparare a qualcuno, ci sono sempre un sacco di problemi. Quello non ne sa fare, devi spedirlo fuori. Posso neanche se nel caso un giorno si romperà, vedi, se si trovano peti, stare lì ad asilarti più di tanto, è avuto qualcosa di nuovo o di seconda mano, ma in ottime condizioni per dire dove si trovano i peti, perché sembra così, fatto sta. Mi piace l'apparato, anche se poi va rotto la situazione, perché vedo che è un po' la gente sembra che si stia rompendo le palle, nessuno è d'accordo neanche per respirare, lo terrò sempre anche sempre acceso, per sentire a farlo, almeno viaggiando in bande laterali, e qualcuno prima o poi anche nelle stagioni estive ci comunichi, dunque non l'abbandono per modo di vedere io. Sto valutando, non lo so, vedo un po' com'è la situazione. Anche la recessione, una recessione che va con l'apparatura. Quello è vero, prende pochissimi disturbi, quello sono pienamente d'accordo con te, è molto zitto e riceve, me diciamo, usando la parola cacca nella modulazione non ne prende, è molto molto poca. Sì, e poi c'è la recessione, c'è un'amplificazione della recessione, sembra che c'è un amplificatore dell'antenna, riceve un bel bene, tu lo metti il volume massimo ma è stereofonia. Sì, è vero, infatti tu mi stai confermando giustamente. E diciamo con 68 cambia la modulazione, adesso per dire, io sono andato al mare, ci ho portato mia figlia giustamente a farsi una nuotatina, che mi fa anche bene. Comunque non si è facendo il 68 e io in macchina il 44, e ho chiamato mia moglie per dire, vedo che sia abbastanza bene questo 68 e dico che ha anche una bella modulazione, veramente squillante. Però il Galaxy lo trovo molto più morbida, cambia tantissimo, è vero. E la modulazione è la tua voce originale, te la fa sennò perché io sono innamorato di questo apparato, mi dà fastidio che lo vedano, io l'ho fatto per 4 volte, lo smaglio, ma non lo uso più, adesso me lo tengo, che ripara quegli apparati lì, io lo conosco uno, te lo presento, non ha nessun problema perché quegli apparati lì hanno la parte interna del brutto di altri apparati, quindi si trovano tutti i pezzi, dai finali perché li ho cambiati io, al modulatore, tutti i pezzi si trovano. Allora guarda, nel caso qua se mi stai dando questo consiglio, per carità ben accetto, nel caso ci sentiamo in verticale così, senza fare nome giustamente, comunque se è distanza me lo presenti o ci diamo un appuntamento, vediamo un po', là, lo posso portare anche a lui, non è un problema, se tu mi garantisci che c'è almeno qualche persona disponibile, giustamente pagando, che gli possa mettere le mani addosso, anche se adesso ne ha bisogno, ma un indomani per dire, se capita l'occasione, perché no, se c'è a Sassari è bravo me lo dici. La tua voce. Chi è? Telecom, la tua voce. Avanti Telecom. Sei Vittorio Sgarbi. Buonasera, ben ascoltati a tutti, sono Vittorio. E sei Grudì. Che Vittorio Sgarbi. Buonasera anche a lui. Come il giorno che mi vedi in verticale, uia. Grudì. Bello. Dove sei andata Ariel? Ah no, no, non sono uscito, ma se esco fra una mezz'oretta, adesso non c'è nessuno. Non c'è nessuno al ghetto. Se tu fai la recente tu riesci te a gogo, sarete in giro. Vabbè, comunque io il primo paletto ho detto quello di tu, Antonè. Io questo l'apparato, non questo che ho adesso, ma un altro che ho venduto, l'ho cambiato sia il coso, sia i finali che il coso, il modulometro. Il modulatore, c'era un modulometro. Niente, adesso è perfetto. C'era la persona che modula e quindi sta funzionando tranquillamente. Comunque, questo tipo che mi ha detto tu che li rifare di Sassari, sì? Al laboratorio di via Mosca, si chiama Videolab, lui a me me l'ha riparato lui e me l'ha riparato molto bene, io ho fiducia perché è una persona stessa. Ah, ma che Videolab, che diciamo ripara anche televisioni, che è attaccato a una panetteria? Stoni. Che lì attaccato, c'è scritto, se non sbaglio Sony, sì, che poi lì dopo il negozio ci è attaccato una panetteria. E questo non me lo ricordo, però so che lì. Via Mosca 32. e a Mosca altrettanto, e lui è bravo a riparare questa situazione ancora. Ma vedi quanto cambia, tutta un'altra storia, preferisco per questo più come modulazione. Ehi, perché l'altro non ho spinto, ero bassissimo, ecco. Questo come sei sicuro è più forte dell'altro, no? È possibile. Qua da me è molto, molto, ma molto più forte. Ma come di segnale, cambia? No, no, di segnale è sempre lo stesso, come radio. Molto, molto più limpido e potente. E senza distorcere qua. Poi non so gli altri come la vedono. Non so, già, mira nel telefono, cambia. La diversa modulazione è molto più potente e più prepotente per me. Il telefono ce l'ha più, diciamo, più nitida come modulazione, però l'altro praticamente è più prepotente. È retta la bambina e comunque sì, no, migliore questo per fa, è proprio secondo me è meglio questo, è più potente. Oh, fino adesso ho detto sempre che era meglio l'87 del telefono, questo sì, se no lo porto formalmente perché è più, come dire, più chitino, cambia, io sento qua la mia voce che chitino, cambia. Meglio questo, più squillante, a me piace di più. Oh già, ma scusa, stavi parlando di una persona ma che ha un nome, se non sbaglio è un grande modulatore. Peccato. Io sto facendo pubblicità perché è una persona che mi dà fiducia, a me mi ha portato un apparato che non andava, me l'ha aggiustato con una modica spesa, me l'ha aggiustata. Siccome non hai fatto il nome, sembrava che ne stessimo parlando male, ma di una persona finché se ne parla bene, anzi, meglio fare il nome, meglio che si sappia. Se non sbaglio è Vittorio Giove, no? Oh, è una persona in gambissima, preparata, oltre ad essere, stiamo parlando di uno M, che con i controcoglioni, quindi assolutamente. È una persona che ha sempre fatto quella furolina. Mi allora ha detto via Mosca 33, mi hai detto, giusto? Che poi è l'entrata di Sassari. 32. Ah, via Mosca 32, ve lo segno. E c'è scritto Sony nel suo negozio. Ma se guardi c'è. È indistinguibile perché. Distinguibile meglio, perché c'ha il furgoncino fuori e si vede che chi è. Sa perché lo sia fuori lui. Lui gira per tutta la Sardegna. Scappa che poi è. È da un po' che non lo sento qua sulla 27, ogni tanto entravo, facevo una capattina e poi è da un po' che non lo sento più. No, è entrato da poco, mi ha salutato a voce bassa, si è andato, c'è, ha detto lui, c'è, non più lui, c'è, ha detto, siamo io. Una volta l'ho visto, stavano facendo una manifestazione lì vicino al gremio, all'intergremio, quelli dell'Ari, e c'era anche lui. Lo so, e io invece l'ho trovato su alla panoramica, avevamo la stessa idea di fare di ex, solo che lui aveva apparati la diamatoriale, io ci avevo la 26, solo questa antennone sarà stata il minimo dove dovevi attaccare la macchina, l'altro che sbucava dritto, che ci va dritto al coso, poi aprivo le scorte e dicevo lineare tutto il parapetto della macchina, tutta la parte di dietro che divide dal coso, dall'autista, diciamo, al vano di carico. Qui ti dico la verità, io alla fine sono più per chi con mezzi ridotti riesce a ottenere il massimo, cioè è inutile che con apparecchiature, attenzione, io voglio prendere anche la patente a ottobre, se capita, sto studiando per dare l'esame, però se raggiungi risultati con mezzi mediocri, secondo me è più soddisfacente, capito? Ma lui c'ha la possibilità di costruirsi, di fare, lui si costruisce molte cose, non ti credo che sia tutto roba comprata, fatta, il suo divertimento è fare costruire le cose e metterle in pratica, provarle. No, quello sì, però dico, chissà perché è più appassionante secondo me per adesso essere CB che essere OM, perché non puoi usare ponti ripetitori, non puoi usare tutta una serie di cose che loro invece hanno a disposizione, capito? Io non sei tu che arrivi, sono i ponti che ti ripetono il segnale, è una cosa no, io infatti non ho mai avuto, ve l'ho detto tante volte, di prendermi la patente perché stanno tutti che vanno a passare per la radio, però quel tipo di frequenza lì non è che mi piace molto, anche perché è troppo seriosa, non per fare una battuta e cose, stanno solo parlando di roba tecnica e basta, è un po' pallosa. A dirti la verità, a me assolutamente piace, però ti dico, infatti voglio prendere la patente per quello, però sicuramente è più appassionante questo, cioè per adesso, perché la soddisfazione di aver collegato Vienna col baracchino uscendo con 4 watt d'antenna sicuramente non ce l'hai quando esci con 3-4 mila watt o comunque 3-400 watt. Certo, però fa solo propagazione, invece con quegli apparati lì lo puoi fare stessere, capito? È una cosa che ti stufa alla fine, invece in 27 lo puoi fare solo propagazione per questi collegamenti qua, quindi ti entusiasma se riesci a fare, capito? È una cosa di nuovo, io la vedo diversamente, poi ognuno la vedo a modo suo, per carità, rispetto le idee di tutti, non è che voglia dire, però... Attenzione, stavo dicendo, io non rispetto tutti, tanto è vero che non è che non voglio che passi come invidia, però perché spero di arrivarci, perché poi secondo me l'appetito viene mangiando e magari sicuramente cambierò idea, perché più vai avanti più vuoi dalla bicicletta, poi la moto, finché non vuoi, o meglio la scooter e poi la moto più grande. Però per adesso mi soddisfa di più fare un certo tipo di DX con qualcosa, col baracchino. Ma poi anche da tenere conto che loro possono usare lineari molto potenti, tutte queste cose qua. Il segnale viene ripetuto al ripetitore e non è il segnale che emani tu, ma è il segnale che tu emani al ripetitore, il ripetitore qui lo spinge all'interlocutore. Ci sono tante cose, sono innovative come frequenze, perché puoi collegarla al computer, tutte queste cose, siccome a me piace più la cosa semplice, sono fatto così, non c'è niente, ma tante volte, guarda, c'è un amico Walter che me l'ha detto tante volte, perché non ti prendi la patente, non fare l'asi, non prendi la patente. C'è da dire che sicuramente loro hanno studiato, hanno una cultura in merito che è un'istruzione che uno che fa la banda cittadina esclusivamente quello non c'ha assolutamente. Riprendi Antonè. Via, no, ti stavo ascoltando. E niente, adesso vedo un po', dai, provo ad avvicinarmi a questo, dai, a questo via Mosca 32, vediamo un po' se lo becco, glielo porto, gli faccio fare un servizietto ancora meglio, dai, a questo apparato, se penso che abbia tutta la strumentazione anche per lineamenti e cose varie, vedo un po', dai, cosa ne esce fuori e poi valuto. Vedi che ti ho mandato io. E io ti ringrazio, faccio il tuo nome allora, col tuo permesso. Vedi, mi ha mandato, già vedo più lui, già lo sa chi sta. Perfetto, va bene. D'accordo, io vi saluto che continuo a prepararmi per domani, che come alzare presto, dai, vi saluto a tutti e tre, vi auguro buonanotte, nel caso ci sentiamo domani, dai, buon divertimento e buon proseguimento. Ciao, ciao, noi ci sentiamo. Pensaci bene, avendo il tuo club, perché riesci bene l'orario. Avanti, Antonio. Antonio, io. Ciao, Antonio, dai, ci sentiamo alle prossime. Ma sì, tu altro, scusa, prima non me lo ricordo, c'era anche il globo. Avanti, per... Che mi ha chiamato? Ciao, Antonio, ciao, abbiamo ascoltato, alle prossime, dai, cambi. Andi veramente, dai, se non sei te che questo qui è più forte apparato, via Muglia. Dove trovo poco fa, c'è un ammisso. Se vuole spendere 200 euro o comunque se è uno a disposizione di spendere 300 euro prende un pieno, una figata. Cosa io ripeti che non ho capito, che altro niente che stanno in bagno. Ma stavo dicendo, se una persona spende, vuole arrivare a spendere 200-300 euro, 200, già 250-300 euro trovi un Kenwood, un 140. A me quel tipo di apparecchio non interessa. Io l'ho avuto e disturbava di brutto. Disturbava o gli entravano disturbi? Disturbava i telefoni, non tanto i televisori quanto i telefoni. Io ho avuto problemi, l'ho usato per pochissimo, pure venduto. Disturbava il telefono, e questa qua mi aveva messo l'articolo sul giornale, storie, bigliettini nei portoni di casa, vicino, dove è scomposto, questo o quell'altro, un articolo sul giornale, ma ha creato dei problemi. Dirti la verità, anche a me creava questo problema, nel senso che sia io che Daniele, lo sai che modulavamo ogni tanto con quello. Io l'ho dovuto dismettere perché? Perché faceva TVI, ma è un problema che adesso non c'è. E anche quello dei telefoni, un telefono è un problema che fa con telefoni vecchi, perché avevano una frequenza bassa. Però ora come ora, con i nuovi cordless, non, non c'è nessun problema, tantomeno ancora col digitale terrestre. Ma ce n'è uno, se ti interessa, 140 su MB, lo sono mano 300 euro. Troppo. È giusto il prezzo. Ciao. Fabrizio, ti rivolto da questa parte che vi ascolta. No, non mi interessa perché ce l'ho, ti ho messo... Ciao, figa. Ando perché in previsione anche di prendere la partente. Da troppo, 140, 300 euro è il prezzo suo, lo vedo 350. Ho trovato il prezzo, a quel prezzo trovi qualcosa di superiore. Che è, occhi di gatto. Eia, il 440 quanto lo dai tu, secondo il tuo modo di essere? Quanto vorrà, non più di 350, se è trattato bene, 400, intorno alle 400, dai, qualcosa più, qualcosa meno, in base a come è trattato. Ma Roger, comunque, ben sentito, ben ascoltato, occhi di gatto, da un po' di tempo, quindi cordialità da parte della stazione Grotte. Ti saluto anch'io Grotte, saluto il Pio Room. Io vi ascolto sempre, tanto quando sto spazzolando da una parte all'altra ogni tanto mi fermo un po' qui, un po' là e ascolto un po' tutti, quindi vi ascolto. Vero, già mi è piaciuto perché vi siete tirati una sovramodulazione che è durata almeno un quarto d'ora. E doppio room e poi rilancia occhi di gatto. Ciao, siete volontari. No, ho detto che diciamo che io ci penso due volte perché per l'apparato, ma me l'ho fatto passare troppi casi con l'apparato, ogni volta, per carità. Riprendo io. Sì, però comunque credo, come diceva poco fa l'amico, credo proprio che non ci siano più problemi di TVA, di telefoni, di questa roba qua. È comunque grosse. Tra l'altro Alessandro, non so se hai sentito, se hai ascoltato, se hai fatto un po' di QRX, appunto questa idea ti porta a conoscenza, ma chiudo qua la cosa perché non voglio tediare Gianni, la possibilità di aprire questa associazione che stiamo mettendo in atto. Silenzio dice tutto. Piega, forse non ti ha capito. No, io ho capito Alessandro, io non sono Alessandro, sono Fabrizio. Si è chiamato Alessandro, quindi non ho risposto, passo. Perdonami, tradito dal fatto che Gianni ti ha chiamato Alessandro all'inizio, quindi io ti conoscevo per nome di stazione, non mi ricordavo il nome del modulatore. Ho sbagliato, mi sembrava Alessandro il portatore all'inizio. Sì. E prima no? Sì. Sì, comunque ho sentito in questi giorni, ho sentito qualcosa di questa associazione che volete aprire, l'idea non è male, è buona l'idea. Roger, quindi nel caso tu aderiresti? Vediamo, io sono, vediamo, però comunque è una cosa interessante, è una cosa positiva, non ho sentito parlare in radio, ho sentito parlare qualcuno un po' più, un po' meno, ognuno diceva la sua, però penso sia una cosa positiva. Esattamente sì, l'eterogeneità dei pensieri è la cosa migliore, soprattutto quando ci si associa, quindi non è che si sentono solamente i pareri positivi, ma anzi vengano quelli negativi. No, certamente, quindi io sono a favore di questa cosa. Potrebbe essere che magari una mano te la possa dare, la possiamo, vediamola. Poi Caparoggia, sì, è vero, il 140 crea un po' di problema perché comunque è un apparato molto potente e non è amatissimo dai radioamatori perché comunque è molto rumoroso in ricezione soprattutto. Sì, infatti è stato migliorato con le versioni che sono uscite dopo. E comunque è un apparecchio che va bene anche il 140. Assolutamente sì, l'unica cosa gli manca l'accordatore che è il 440, mi sembra, o il 640. Però è un buon apparato, io mi sono trovato davvero bene, soprattutto adesso quello abbinato all'MD60, anche se non ha la capsula originale, però devo dire la verità, bel apparato. Sì, adesso infatti il 440 è quello con l'accordatore, questo usando c'è l'accordatore, anzi adesso ve lo chiedo, come vi sentite in confronto all'apparecchio che stavo usando 15 giorni fa? La voce è più calda. Mi sono vestito ieri, diciamo bene, stai comunque uscendo bene, considerando che io sono nell'altra parte della città, perché sono in un altro QTH e ti sento come ti sentivo, anzi meglio di come ti sentivo, a dire la verità, quando stavo nel mio QTH che è dietro casa tua. Sì, perché dovrebbe essere più calda la voce del Gamond, dell'ICOM, e quindi se il doppio rumo sentito mette più calda, ci siamo. Fermo pastosa. Avanti, doppio rumo. E più o meno, per farti un paragone, come può uscire una radio con il transistor a una radio valvolare. Perfetto, come il 440, come l'NTV valvolare, l'ultimo che hanno fatto l'incrocio. Il microfono cosa stai usando? Momentaneamente come microfono sto usando il suo, quello originale. L'85 dovrei tirarlo fuori dalla scatola. Lì ci sta bene l'MC60 e si sposa di lusso. Sono rientrato già. Saluti anche all'amico, mi è sembrato chiedicato. Buonasera, Antonio Bombo da questa parte. Ciao Antonio Bombo da questa parte, ho chiedicato. Sì, sono perfettamente d'accordo per il 60. È una coppietta vincente secondo me, sì, anche l'altro va bene, ma la MC60 per me vede di più. Ci vuole anche diciamo il tipo di voce che cambia molto anche la modulazione. Affermativo. Ma adesso vediamo piano piano, beh, probabile che ottobre ci troviamo insieme a Cagliari, ma perché scusa, non mi hai detto, ma perché lo devi ripetere? No. Dopo 12 anni credo di sì. Prova a chiedere a Claudio Sparviero oppure telefona direttamente, mi sembra assurdo. Mi sembra assurdo perché dico, lo danno senza fare l'esame a chi ha fatto un certo tipo di studi e a te ti scade, no? Guarda, se vuoi mi interessa, domani mattina posso fare una chiamata, intanto devo chiamare per prendere il patentino di radiotelegrafica limitato per il VHF marino e ti faccio sapere. Ciao, chiedi, perché io ho dato una sversatina in rete, dopo una volta il mio nome attivo non c'è più, una volta non c'è più il nome attivo sei fuori, a quanto pare, devi ripetere tutto. Poi se c'è qualche altra procedura, questo non lo so. Fa piacere se c'è compagnia scendendo giù, però mi dispiace perché deve riprendere tutto in mano e soprattutto ti cambia la sigla, qui magari eri affezionato, capito? Guarda, sinceramente, dopo 12-13 anni non è quello il problema. Non so nemmeno, cioè, se ho ripreso giusto per giocare e via, quindi probabilmente mi sta appassionando nuovamente, adesso vediamo, dai, avanti. Ma credo che poi l'aspetto ludico sia quello che ti faccia appassionare, perché nemmeno come tutti siamo appassionati, perché per divertimento la cosa non deve essere troppo seriosa, sennò davvero lo rinfili dentro l'armadio dopo due giorni. Avanti Bombolo, cosa stavi facendo? No, parola, sono dovuto andare veloce al QTH a Piccolino. Cappa, comunque rispetto all'altra volta qua si guarda fondo scala, Ho chiedicato, c'è veramente forte qua la pedolce, l'anima destra. Mi fa piacere, no? Vuol dire che anche dopo tanti anni l'umidità non gli ha fatto niente. Avanti. Tu probabilmente non ne ha preso. Probabilmente no, era in tutto in garage. Meglio così, dai. Peccato. Oh, cazzo, già si vede che sono, anche io sono nelle condizioni un pochettino meno di te, un'antenna più piccola, e quando io ti ricevo così forte vuol dire che se avrei avuto un'antenna grande, al minimo è stato tutto a fondo scala. Tu hai Gianni il più forte di tutti. E tu sei quasi, sei proprio quasi a fondo scala, ci manca poco. C'hai come antenna tu? Io? cattivo ottuso che c'hai da Ringo, o Bombolo sto dicendo. Io c'ho un assidio, Turbo 2000. Non è piccola, no, come antenna? Beh, è un'antenna rugidale, da... l'ho fatta io da bancone. Diciamo che sopra è attaccata dalla porta finestra. Hai capito? Fuori, da. Ho capito, ma aspetta, che cos'è? Una mezz'onda? Ma dovrebbe essere 50. Adesso 50 non è il massimo della cosa, dopo c'è solo la 3 quarti, ma la 50 è già un'antenna da 7 metri. Ah, non c'entra niente, non è quello, no. C'è un'antenna della macchina che sono anche da 50. La mia non è alla grande 7 metri, però ora è una 50. Però c'è una bobina di carica alla base. Con la base magnetica scappa, ma tu vuoi venire dall'assidio, però già mi faccio sentire, anche se non sono in condizione di grande cosa, però mi faccio sentire. È un'antenna veicolare quella lì, è la macchina. Ah, capa, non l'avevo capito, io pensavo fosse, come ho sentito Sirio, pensavo fosse un'antenna normale da stazione fissa. Avvicinati al microfono. Mi sto dormendo. Comunque già va bene, dai. Già mi intenderà stare parte a me. In tutto il sasso, riguardi, perché c'è anche una abbastanza aperta. Assolutamente sì, assolutamente sì. E mentre invece tu stai uscendo sempre con la cosa, con la Ringo, sì? Sì, adesso sì. Poco fa forse ho fatto un paio di collegamenti con il dipolo, perché ho montato un dipolo che risuona anche su queste frequenze, ho visto che perdo un pochettino qua in locale, però esce bene lo stesso. Un attimino a distanziare un po' il microfono dalla bocca. Forse l'avevo troppo vicino. Sì, sì, molto più chiaro, se no infatti troppo. Se non abbasso un po'. No, niente, ti dicevo, mi guarda qui, adesso provo, adesso cambio antenna e mi dici come mi senti. Non mi dovresti sentire più basso, però dovrebbe risuonare lo stesso sugli 11 metri. Il polo stai dicendo? Sì, con il polo l'ho provato, guarda, oggi ci sono delle frequenze che si utilizzano intorno ai 6,60, un po' più giù di lì. Devi sentire, prima sì, anche lì, devi sentire la vecchia 27, se ce l'hai presente, ci sono alcuni QSO, la vecchia 27 che è inascoltabile. La modulazione va bene da parte mia. forse il ventilatore, ma non può. Ma faccio Radio 91, forse non offre. Ha ragione. Ma tu adesso è stato un passaggio buono. Cosa hai fatto? No, aspetta un attimo, questo è lui, boh. No, sta ascoltando strano io, non chiaro. Adesso hai recuperato, eh? È vero, come aspetto il ventilatore, se non è che gli rubavo energia. Ma dico, se mi sta ascoltando male. Sta uscendo bene, dai. Hai aumentato il nuovo come prima. Da quando hai spento il ventilatore ti sentiamo meglio. Occhio il rumore, rubava la modulazione. Hai rubato il ventilatore agli zingari e faceva contatto. Avanti, occhi di gatto, se hai attaccato l'antenna. C'è qualcosa che non va, non sto facendo chiaro chiaro, perché mi sto ascoltando, ma non lo so. Microfono. C'è qualcosa che non va. Adesso è recuperato, però stai gracchiando leggermente, come se ci fosse il microfono leggermente scarico la batteria. Sì, infatti, aspetta. Prova, 1, 2, 3, prova. Adesso? Lo stesso, ma come se fosse leggermente scarica, ma tu cosa c'è, la batteria? Sì, la batteria. Aspetta. Lasciamo così, non me la compro. Ci messo la batteria a terra. Una cosa, buttaci tutto, tieni la batteria e cambia tutto, no? Ah, io che c'è una bella modulazione, già, dai. Già, fai la tua cosa e di uscire così e basta. Io ti sento bene qua, perché ti ho sentito anche in altre volte, cioè. E quelle adesso, quelle sono le tue modulazioni, oh. Io ti intendo bene, ovvio, da voi. A me sembra un mezzo omosessuale come sta parlando. La modulazione è proprio motion. Aspetta, allora. No. Sì, no, no, no. Doppio tom. Va bene. E avanti, occhi di gatto, dai, ho sbagliato il microfono. Ma io lo sento bene. Io non so voi, ma io lo sento bene. La modulazione ha migliorato, se è diventato il nuovo lui, io sono abituato a sentirlo, quindi non so, so come esce. Non era male manco la prima, ma forse il ventilatore, il rumore del ventilatore le causano qualche problema. Ma scusate, adesso come va, Grode? Comprende che va meglio, perché mi sta ascoltando bene? Prima sembrava un po' compressa. Adesso mi stavo un po' ascoltando e sembra che vada meglio. Ferma, adesso sei tu, ti ripeto, mi sembra che come ti ho sempre sentito. Cosa ho fatto? Cambiato il canale, la 10, sono trovato qua, pensavo che era il canale, vabbè, no, ok, comunque non c'era anche occhi di gatto, se lo dormite avanti. Buonasera anche a te. Allora, Globe, io ho cambiato antenna, guarda come va questa. E la verità, allora? Senti, leggermente, alla prima stavi leggermente, ma leggermente eri un po' saturo, per quello che ti ho detto di allontanarti un po' dal microfono. Adesso sei perfetto, però il segnale, cosa, non è cambiato niente, sei uguale. Leggermente era una modulazione migliore. Probabilmente ho perduto un po' e passato a diminuire un pochettino il guadagno del microfono, perché con questo dovrei perdere, però dovrebbe andare bene ugualmente. Avanti. 9.30 più radio più 5, chiedo conferma a Gianni. No, va bene, io stavo guardando la nicchia. Guarda un po', in confronto a prima, come segnale dovrei essere calato un pochettino. No, qua invece è una bombola. La 9.40, però penso che la radio non mi piace, boh. Che microfono sto usando? Scusa se chiedo. E il suo microfono, l'MC442S. Il microfono originale? R. Ecco perché. Ma cos'è un fatto quello? Sì. Infatti, guarda, ce l'ho anch'io. Io sono un capo adesso, 140, ma il microfono normale fa schifo. Guarda, faccio un passaggio, aspetta. A me, almeno, me a tanti non piace, aspetta. Guarda che mi sono preso le mie BP5, mi devi dire come girare i tappi. Sì, non c'è problema, te l'ho detto. Sono tre figli, te l'ho già detto. Tre figli anche laggiù, se non ricordo male. Tre figli, no, sono quattro, cosa vuol dire sono tre? Sono tre a collegare, io ho collegato tre. Il rosso non l'ho collegato. L'hai collegato? Ma scusa, il rosso non è. Un microfonico. Meno che sta andando, e tu, cosa vuol dire che lo fa? C'è un collegato, meno che va. Stai ascoltando? Più che bene, assolutamente. Quindi è collegato solamente il nero, la massa e poi il giallo. Che si conferma. Ecco, vedi, ho collegato. Tante, senti, non vedi. Questo qua è il microfono normale. Ho capito, rimane meno amplificato, un po' meno compresso. Non è male. Il microfono normale. Scusate, non va bene, diciamo, dai. Non è che sia questo granché. Insomma, c'è qualcosa dentro, ok. E niente. Comunque, quando sei pronto, tu, adesso no, potremmo cercare il fogliettino. Domani, se ti fa sentire, ti do le posizioni dei fili. Già è facile farlo, dai. Devi stare attento alla saldatura che fai. Perché sono troppo attaccate le punte, capito? Già non è difficile farle. Dunque no, sarà possibilmente una punta sottile. Guarda che non è che non sia bella questa modulazione, ti fa di più la tua voce, diciamo. L'unica cosa è che non sei tu come ti ascolto di solito, però è discreta. L'altra sicuramente è più pompata. Ti stavo dicendo, ma io non lo dissaldo, faccio adesso, prendo da Fusaro due spinotti, uno femmina e uno maschio a 4, uno femmina a 4 e uno maschio a 8, e faccio viceversa, e faccio l'interfaccia, capito? Sì, il corretto, quello l'ho fatto io. Praticamente questo qua lo uso con il Typhon oppure col Kenwood, cioè il corretto fatto apposta. E infatti esce un po' guloso, ma comunque non sono riuscito a farlo. Conferma, quanto è che te l'ha fatto pagare lo spinotto, quello a 8? No, sai che l'ho pagato, se non sbaglio, 2 euro 2,50. Domani mattina stesso me lo prendo, dai. Pagava. Già, hai notato anche se sei a te fa lo stesso difetto, nel senso quando ci sono un po' di stazionari tende a innescare. Mai fatto, mai. Vabbè, io ho un po' di stazionari, perché a te non è stata fatta bene. E a quanto lo tiri come Mick Gain? Adesso è al massimo. Mai innescato? No, questo era di Claudio, non c'è lui che mai innescato. Mai. Forse magari è un problema di massa. Tanto la gara che magari non è una buona massa, ecco. Ma questo è possibile, perché sto usando la ringo, è attaccata a un palo e basta. Ed è lì, senza avere una massa. In effetti se gliela attacco a qualche tubo, anche quello del gas che passa lì vicino, magari ci provo domani, dai. Vedi un po', devo avere un bel piano di massa, ecco. Aspetta, faccio un passaggio col Typhon, che è quello che piace a Gianni. Io l'ho detto che era meglio del schifo che quella del Typhon. Ecco qua, questo qua è il Typhon. Va bene, già va bene tutto. Già va bene tutto. E il microfono che comanda. Parti al tu, riprendi al tu. Questa piace anche al tu, e vai al tu. Buonasera. Buonasera. Oh. Chi è? Parlando lui. Sto chiamando Bombolo. Ah, tu, non ho visto il segnale. Per me non va meglio questa, non è più bella questa la modulazione. E la gusti già, dai, riprende. Comunque la pensa che sia comprensibile la radio. Adesso domani, se mi ricordo, devo comprare la batteria Duracell. A proposito di batteria, devo prendere l'alimentazione dal K, così non uso più batteria. Va bene, nel K no, però nel telefono ci vuole. Dimmi una cosa, a proposito. Uno, sei andato a portare quel sorrigo che c'hai al posto del cane a metterti quella cosa? No, negativo, perché tu hai detto il primo lunedì del mese, giusto? Era 4. Vabbè, comunque non è che posso andare, non mi ricordo, ti volevo telefonare, poi me lo sono dimenticato. perché è successo praticamente, mi devo accompagnare questo amico, però purtroppo ho deceduto il fratello e non ho potuto, normale, no, scusa, non ho avuto, cioè, non una persona, o se succede qualcosa non è che puoi fare niente, io in moto non ci posso salire neanche, non mi fido. Perciò lui mi voleva accompagnare, però purtroppo non sono... C'è il motivo, ecco, però mi potresti dire quando sono gli altri giorni? Gli altri giorni credo sia sempre il primo lunedì del mese, o il primo o il terzo, adesso non vorrei sbagliare, comunque chiedo conferma, se no aspetti ad agosto, e dovrebbe essere la prima settimana di agosto. Ora vediamo, là. Così, fatto fatto, non ci passo più avanti, io chi riprendo. Gatto, passaggio a vuoto. Ora, adesso va bene. Niente, racconto un attimino di questa storia, di questa idea che c'hai in poche parole per capire esattamente qual è il senso di questo progetto. È un senso. Dare un senso a questo apparato, perché secondo me da qui a poco, a breve, lo si rinfilerà all'interno degli armadi dove va a prendere polvere. Allora, per evitare tutto ciò, associarsi e quindi di conseguenza poter dare, cioè trasformarlo da scopo ludico a scopo filantropico, e quindi mettersi nella condizione di aderire a associazioni come la Protezione Civile, perché il passaggio burocratico è quello di costituire un'associazione, aderire alla FIRCB e di conseguenza poi potersi iscrivere alla Protezione Civile e fare tutti quei servizi che i CB facevano 20 anni fa, come la cavalcata e tutta una serie di manifestazioni, dando un sostegno e comunque un servizio alla collettività stessa. Ho capito, l'idea è buona. Assolutamente, senza che ci sia uno scopo di lucro, minimamente. L'idea è quella di fare anche un piccolo, di istituire tutta una serie di piccoli mercatini che qua a Sassari non ci sono stati da parecchio tempo, e sai quante persone come te magari tenevano l'apparato o tengono l'apparato in garage e non hanno nessuna intenzione di riprendere, quindi magari se lo possono vendere facendo la propria, la felicità degli altri. Sì, sono d'accordo. Ce ne sono tantissimi apparecchi chiusi negli armadi, buttati da una parte all'altra. Non sarebbe male anche una cosa del genere. Poi se ci danno una sede, poi la cosa avanti. Ripeto, questi sono cartellinari adesso. La prima cosa è associarsi e cercare di, come si dice, di mettere un attimino da parte gli iscritti e un po' gli attriti che ci sono, che è normale che ci siano come in tutte le buone famiglie, e cercare un attimino di costituire la cosa. Poi se ha ad andare avanti andrà avanti, se ha ad fermarsi da qui a poco si fermerà, pazienza. Ho capito, quella è la buona volontà della persona, tutto da vedere. Avanti gli anni. Hai altri 10 minuti. ci siamo sopramodulati, no? Ti ho detto, dimmelo, se mi vuoi andare a letto vado subito, così recupero 10 minuti di sonno. No, no, ci mancherebbe, ce ne sono. Anch'io 10 minuti ancora e poi ci siamo battenti. Davanti, mammolino, scappa, dai, dai, senza che l'ora mia che domani bisogna andare a travagliare. Ok, dai, buonanotte a tutti. In generale, almeno non mi dimentico nessuno. Ce la risentiamo tutta domani alle prossime. Ciao ciao. Dite, ben ascoltato, bombolo, buon 144, buon querretti. Io vi invidio comunque, qua rilancio Luca, eh. Vai Luca. Ciao a tutti, alla domani. Buon lavoro e buona giornata. Avanti. Sì. Anche io saluto tutti, a tutti quelli che sono andati in 144. Ma qualcosa, buon sonno, poi ci risentiremo domani se tutto va bene. Io 10 minuti ancora e poi alla nanna che domani mi alzerò presto. Avanti. Come a me non ti piace il mio nome di stazione. Stavo dicendo, comunque vi invidio. E perché? Perché voi, cioè, perché lavorate. Devi lavorare. Purtroppo non ho lavoro. E niente. Io con famiglia, due figli, sono costretto a lavorare. Una bella parola. Io rispondo entro 19. Dopo te, io sono appena rientrato. Sì, 19 anche. Un mese di nuovo come lavorato. Un mese, non di galera, di lavoro. Mi ho visto venuto che dica. E poco a poco, va bene. Ci fosse mi mette. Mi sento bene, ma purtroppo non è così. Aspetta un po', ma perché è un'altra? Però poi sempre a settembre, ottobre. Chi? Da chi? Ma adesso chi è che ti sta chiamando? Il comune direttamente? Sì, il comune. E invece l'altra? L'altra sempre il comune, forse 6 mesi, lì prendi stipendio bello, tipo 1100, 1200. Azioni quali? Azioni? Scappa. Non lo fare. Da chi deriva dal coso, dall'assessorato all'ambiente? Che cosa? La chiamata? Sì, no, sono il mio collocamento. Capito, no, pensavo fosse... Ma adesso cosa stai facendo? Socialmente utili? Socialmente inutili, sì. Siete adesso? Vabbè che non stai lavorando, mi hai detto il 19, due mesi, quindi. Il 19, quindi sta per erba via Filighetti. Filighetti? Sì, Filighetti, a chiesa. Non ho capito dov'è, non l'ho mai sentito. San Francesco, la mia graffarella su a tutti. Sì, ho capito. San Francesco so dov'è. E, tra l'altro c'è anche un OM lì, se non sbaglio, sulla destra, vicino alla scala. Proprio lì, bravo, proprio lì. Quella zona lì, sì. Poi dirò, sì. No, vabbè, se, ma adesso quando te ne danno la metà? Non ho capito, Antonio, ho messo il volume, ripeti? Te ne danno la metà? Vabbè, se vuoi qua. Qualcosa, tanto la serviranno, purtroppo, devi buttare tutto, se non ti vuoi, se devi sbattere la testa, vabbè, accetto anche quello, no? Poco a poco, non mi tiro indietro, altro. C'è gente che si dice non fa nulla, non so dire niente. Diciamo non faccio niente io, non faccio niente, non la fare. E ci vuole due mesi, mi faccio tutti i due mesi tagliando l'erba. C'è la testa che manca. Guarda che era una domanda, non era un'affermazione. Non ho capito, ti ho chiesto. Quindi adesso ne stai prendendo la metà di quello che prenderesti dopo se ti confermano questa cosa. Ma guarda che ci metterei la firma, cioè vedi tu, stai tagliando erba, c'è gente che ne prende tanto per fare il doppio dell'ora e per lavorare in miniera. Ti rispondo tanto, ma tu sì, confermati, quello che ti chiedo. Però non è la metà, magari la metà. Sì, però sai, all'aria aperta. Già ho visto che non vi affaticate più di tanto, è tranquillo, c'hai i colleghi comunque con cui scambiare quattro chiacchiere, dai, tranquillo, dai. No, non è così come dici tu, no. Io non ti affatico, sai, tagli l'erba, però lo di tre addosso. Ripeto, c'è gente che non fa nulla, piccola cosa, sono dei ragazzi che conosco io, no? Che purtroppo si imbottiscono pastiglie, non prendo un mirra. Cosa fanno? La mirra che si bevono, che si bevono minimo 10 bottiglie di mirra al giorno, sono 15 anni, però le bottiglie le buttano lì, non me lo puliscono, pulino male, questo raccolgono quello e buttano loro. Ecco, fanno quello o fanno altro. E si fanno i soldi che mi prendo io. E vabbè, è quello che vuoi fare. Stavo dicendo, piuttosto stai attento alle orecchie, non mettere il paraorecchie e la maschera protettiva per quel lavoro lì, che ne ho visto qua il tattico, usando quel tagliaerba. No, tranquillo, già non ho provato, io lo uso piano piano. Piano piano sempre andando, non però male da no. L'unica cosa è che sono stai attento, ti bruci. Lo so, ma lì c'è anche una questione a lungo andare, ma bastano un paio di mesi, puoi diventare anche impotente dalle vibrazioni della macchina. No, già lo so, già passerà. Passerà se vuoi, dai. Sta con me. Uso gli occhiali. No, già non ho avuto problemi, grazie a Dio, per quello. Poi uso la tuta, così mi sporco di meno. Non ti sporchi di fare a me, qua lo sai, no, proprio l'erba. Già lo so, però ti ripeto, le vibrazioni della macchina ti possono rendere impotente. Sì, sì. Piero, ok, gatto, confermi. Non lo so, perché devo mettere la terra, quindi no, non lo so, ancora funziona. Soprattutto, dopo che la tagli, non te la fumare, tu, non te la fumare. Non sono impotente, io sono prepotente. Figlia, avvia di Cattardi, a tua figlia, no? Tu sai che io studio medicina, lo dico per il tuo bene. Sì, sì, medicina, la medicina legale. No, se avessi studiato medicina legale non sarebbe stato carino, perché a chi davo consigli? No, sicurezza nei luoghi di lavoro, quindi. No, vabbè, quello sì. Prendiamo quello che ci danno, non è qua. Invece mi sono fatti, e sono rimanorati, se non ho lavorato mi hanno regalati, perciò non c'è problema, vedi? È stato di nuovo di qua. Ma la strada è di bello che non prende colpi, però il resto, mamma mia. Daniele cosa sta facendo? Buona attesa. Lavorando e sono assente per motivi, come si dice, di affettivi. Non lo so, ma non ti so rispondere alla tua domanda. La farò uccidere. Riprendi, occhi di gatto. Ho capito. E quindi sto studiando, hai detto, sulla sicurezza sui posti di lavoro, giusto? E adesso quelli che prima si chiamavano ufficiali sanitari, adesso è una figura un attimino più complessa, si chiamano tecnici della prevenzione negli ambienti e nei luoghi di lavoro, che è una mini laurea di medicina che ti permette poi di accedere ai vari settori dell'ASL, che può essere quelli del SIAM che fanno i controlli agli interni dei locali di vendita, oppure quelli dello SPRESAL che fanno i controlli nei luoghi di lavoro, quindi cantieri edili, ma è ad ampio spettro, non solo dovunque e comunque ci sia un lavoro, capito? Ho capito, no, la conosco bene quella materia perché la devo applicare, quindi la conosco bene. Ed è complessa, è abbastanza complessa, ho fatto parecchi corsi, quindi più o meno già ho capito. Ho avuto anche modo di avere rapporti con quella parte lì, controlli, controcontrolli. Sì, perché poi le ditte devono avere il responsabile della sicurezza, poi il tecnico è un'altra cosa, diciamo che è una figura un attimino più complessa perché deve essere laureato, quindi devi fare tutta una serie di cose, piano della sicurezza devi avere a seconda del tipo di vita che sei, ma sono tutte cose che sai già lei. Sì, il lavoro mio, quindi già lo conosco abbastanza bene, ho 22 anni, quindi abbastanza bene. Ti dico la verità, a me ha aperto gli occhi su determinate cose, sicuramente fare il tirocinio, perché poi una cosa teorica è associata anche a un lato pratico dello studio. E ti dico che da un po' di tempo, almeno da 2 anni, da quando ho iniziato a studiare, che non vado più in un ristorante cinese, ad esempio. Vabbè, è quello fai bene. E comunque una bella materia, molto molto complessa, adesso è proprio molto complessa e sta diventando sempre sempre più complessa. Aspetta, dobbiamo dare 37 esami, non sono degli esamoni, però alcuni sono belli tusti perché sono proprio di medicina. Ho capito. E vabbè, auguri, studia. Cercando di fare, come stavo dicendo a Luca, mi è capitato di vedere gente usando un defibrillatore proprio per la faciloneria di non mettersi gli occhiali, avere proprio la cornea sfondata proprio dal crasto che rimbalza e gli va sull'occhio. Bisogna lavorare in sicurezza, io di principio sempre lavorare, hanno formato un gruppo Safety Champion, mi hanno messo in mezzo, lavori in più, e comunque è tutto incentrato sulla sicurezza, la mia azienda vuole sicurezza, punto. Vedete che lavorano da noi, non lavorare in sicurezza, se no tutti a casa, questa è la nuova politica. Prima avevamo la politica quando eravamo pubblici praticamente, se vedi chiudi un occhio e vai avanti, adesso invece no, se vedi bloccati, blocchi i lavori e poi se ne parla. Che poi è una questione di convenienza, perché si sono resi conto esclusivamente che curare il lavoratore costa di più che metterlo in sicurezza, e né più nemmeno come la campagna di fumo che ha fatto l'America a un certo punto, perché si è resa conto che guadagnava di meno di quanto non spendesse a curare i malati di cancro. Sì, certo, per lo stesso motivo, tutta un'azienda, l'obiettivo principale è avere infortuni zero, perché avere infortuni zero vuol dire pagare meno di assicurazioni, vuol dire avere certificazioni maggiori, vuol dire avere dei primi a fine anno, avere dei primi di produzione, perché noi il nostro primo di produzione ci cade in maniera drastica in base agli infortuni che si creano all'interno degli impianti. Per esempio, ultimamente siamo stati quasi 3 anni senza nemmeno avere un infortunio dove girano migliaia di persone. Infatti, no, non lo vediamo come se fossero a favore del lavoratore, lo sono indirettamente, lo diventano indirettamente, però te ne rendi conto che è tutto fatto improntato per spendere e avere meno spese e più guadagni, assolutamente. Sì, perché qui la maggior parte della sicurezza diciamo che la maggior parte non è che sì, bisogna investire, qualche soldo lo devi investire, ma la prima sicurezza sei te, tu che lavori, tu sei la prima situazione, la prima rotazione antinfortunistica sei tu, perché noi lo vediamo, la maggior parte degli infortuni, ma non solo gli infortuni, la maggior parte delle fesserie capita, ma non perché non hanno le rotazioni antinfortunistiche, capitano perché li utilizzano male, perché non le mettono, perché hanno caldo, perché poi capita quello che deve capitare. Infatti la prima cosa che devi combattere è la disinformazione, perché molto spesso ce la si prende con il datore di lavoro, che invece poco c'entra, ma è il lavoratore stesso che è non ben informato di come deve utilizzare, di quelli che possono essere i possibili rischi, si mette nella condizione di non utilizzare come si deve appunto i mezzi di sicurezza. Qualche caschetto, adesso che c'è caldo, nei cantieri li vedi tutti senza caschetto. A volte arrivano anche in ciabatte senza le scarpe antinfortunistiche, capito? Tutte cose che poi alla fine li mettono, li espongono a rischio. Sì, ma è così. Comunque pure ormai la sicurezza non è più come per esempio prima, penso il preposto ai lavori era responsabile anche della sicurezza personale degli operai. Adesso non è più così. Ogni persona è responsabile della propria sicurezza. L'importante è che chi ti consegni il lavoro, il tuo responsabile superiore ti rende conto di tutte le problematiche che ci sono, di come si usano, che ne so, lo schermo protettivo, i guanti antinfortunisti, le scarpe, elmetto, copri palle se ci sono, giubbino, cinture di sicurezza, che ti rende conto, che ti fa i corsi, ti dice questo si usa così, e poi se non li utilizzi, a quel punto sei tu responsabile, non è più il, diciamo, il capocantiere, ma è responsabile la persona che doveva utilizzare quegli strumenti, che sia uno specializzato, che sia un manovale, non cambia niente, sei responsabile della tua sicurezza. È giusto che sia così, perché prima si sobbarcava tutte le colpe a una persona che poco c'entrava, perché magari ti diceva mettere il caschetto, si girava, tu te lo toglievi, cadeva qualcosa in testa, la responsabilità era comunque sua. Questo non mi sembrava giusto nei confronti di questo qua, che davvero di questa figura che era il responsabile della sicurezza, che si beccava tutti i problemi, capito? Tutte le colpe di una di un qualcosa che non aveva, di una colpa che non aveva realmente. Abbiamo lasciato in parcheggio il diretto interessato. Avanti Luca. Sì, adesso. Guarda, facciamo una cosa, a mezzanotte ci andiamo a andare, no? Che sono? Mezzanotte e 5. No, meno 10. Roger, e tu te lo metti lo schermo protettivo? Io uso gli occhiali, te l'ho detto. Oppure con la mascherina con la vestina da voi. Certo, per forza lo devi mettere, se no non fa. Per forza. Giubbottino, quel giubbottino arancione, scarpe che costruisci, che guanti, per forza, la pappa di Roger, che poi secondo me i peggiori di questi che fanno questo tipo di lavori qua sono quelle ragazze madre che ogni tanto prendono, che le vedi che si fanno 40 sigarette ogni 10 minuti e un minuto di lavoro dove non fanno niente. Confermi? Confermo, l'accendo. Però vabbè, è una possibilità che va data a tutti, d'altronde questi lavori servono anche a quello, però sicuramente quello che non fanno loro te lo devi fare tu, capito? Cosa vuoi dire? Ma se non lo dico a lavorare, io per esempio ho fatto 4 mesi con questa qua, insomma, quindi prima volta ci lavora a fare. Forse la gente sta a prendere colpi, però lasciando quel tipo di lavoro lo devi fare, almeno nel minimo, certo che sono i pugni in mano, cioè con me ci facevo un lavoro per i cavolini, cioè con me stai facendo i mattoni, scusa un attimo, tu cosa stai facendo? Guarda che ci prendeva, la mia letta di 1500 euro al mese, con gli figli a carico, e lo fa dire a punta, bisogna che il mocca ci vuole in mano. Infatti tu dovresti fare così, ti dovresti trovare una ragazza che abbia soldi e dopodiché metterla incinta e sistemarti. Ma sono impotente, non posso. Fai finta, ci mandi qualcun altro e poi dice che sei stato tu. E ne occhi. Anche quello va bene. Anche quello va bene. Anche quella è una cosa intelligente, così c'è la rottura di palle che ti ha provocato un altro. Quante volte non è sempre che così, dipende da come tu li imposti il tutto, ecco, certo, se mi dai un dito poi se ne prendo un braccio, no, meglio niente, va, no, c'è un problema. Un po' che ho trattato, perché ne so qualcosa e non mi interessa, ma assolutamente no, mi interessa. Sono problemi grandi, sono problemi grandi. Che non è il dito che ti dovevi dare, o lui, non è il dito, ma tu sei fidanzato. No, io sono fidanzato virtualmente. Virtualmente però, quanti anni hai? Anche lì? Dico lì? Tu quanti anni hai? Io, se Dio vuole, 37 a dicembre, se Dio vuole. Poi vai a lui, per la parte. Allora è venuta l'ora di lasciare il nido, mio lui. Trovarti una ragazza per bene, sposare, coniugarti. Guarda, Arturo, non è tempo di sposarti e di fare figli, lasciati. Adesso gente, conosco io, sono grandi di tua mamma, dai, ma cazzo a capa, che figlio so, sta lavorando, come fai? Ma ti viene le usa a mettere la manca. No, sono d'accordo qua, mi dispiace, non so, però non è... come fai? No, allora un lavoro, non ci fanno i figli, no, vabbè, un lavoro fisso, perché altrimenti non fai niente, non puoi andare a chiedere una faccia all'altra, dopo sono fare un lavoro, due volte qua, quindi se non fanno le palle, non ti hanno più niente. Perlomeno, io non sono d'accordo. Se non lavoro, allora lo puoi anche fare. Guarda, neanche basta uno stipendio. Cosa che tu figli ne hai, boh? Comunque chi ha dei figli ne sa qualcosa. Penso che sappia qualcosa anche di gatto. Io ne ho due figli, uno di 2 anni, di 3 anni e uno di 8. Vogliono mantenuti. Il lavoro io, quindi, grazie a Dio sono 20 anni, un buon posto di lavoro, quindi io proprio non ho da lamentarmi, potrei tranquillamente da solo mantenere la famiglia, ma poi lavora anche mia moglie, quindi però con l'euro le spese sono raddoppiate. E vicino è il campo d'estate. È tutto, c'è tutto costa, capito? Quindi ci vogliono i soldi, bisogna lavorare e in due pure è meglio. Il problema è che la società, grazie al modo di ragionare di Luca, che poi è quello del 90% delle coppie che non fanno un figlio perché lo stanno lavorando tutte e due, quindi non hanno tempo, sta diventando multietnica per quello, cioè nel senso che chi arriva, che magari viene da fuori, che è abituato a sgarrarsi la canna, come si vuol dire, che è extracomunitario, si fa 3 o 4 figli e alla fine avremo la popolazione, cioè abbiamo una popolazione che attenzione ben venga, che non è che sono razzista o classista, però realmente ci stiamo a livello di razza mischiando per questo motivo. Proprio per questo, perché loro arrivano qua, si fanno 4 figli senza nessun problema, non si mettono il problema di poterli campare, dice. Adesso io cosa ti capisco pure, però quando i figli, voglio dire, io visto, grazie a Dio non ho avuto problemi di lavoro perché appena diplomato ho fatto un concorso all'Enel e l'ho vinto il primo, tipo sono anche io non avevo né spinte né niente, proprio non volevo fare tutt'altro io, però voglio dire, ecco, sono 22 anni che ci lavoro. E quindi non è quello, però ti posso garantire, sto lavorando quindi da 22 anni, mi sono sposato dopo 13-14 anni che lavoravo, quindi non avevo problemi con la lavoro a casa, pagato, al mare, cioè, proprio, cioè, in quegli anni ho fatto tanto, cioè, avendo un posto fisso, tranquillo. E poi mi sono sposato e ho fatto 2 figli, mia moglie lavora, però ti posso garantire che quando inizi uno devi la mangiare, devi comprare condominio, e condominio là, devi mantenere una macchina, assicurazione, l'altra macchina, perché ci vogliono dei lavori, metti i lavori tutti, il bambino deve andare a scuola, ti paghi i patti, ti paghi i piedi, e poi l'estate lo devi mandare al campo sportivo perché si lavora tutti e due. C'è una cosa impressionante sul dire quando via, sono lavori in due, cioè fa la fame. Non so, la verità è che un figlio al giorno d'oggi, nel nostro figlio vogliamo rivedere tutto quello che non abbiamo avuto noi, gli vogliamo dare. E a volte esageriamo, perché io ho visto i figli di un amico, gli fa fare equitazione, gli fa fare piscina, gli fa fare, cioè alla fine lavorano, alla fine stanno lavorando al posto di divertirsi. E sono vestiti completamente di marca, fra l'altro con scarpe che il giorno dopo non gli stanno neanche più. Forse stiamo anche un po' esagerando. Sì, ma io sono d'accordo, stiamo anche esagerando, io cerco di limitarlo alcuna cosa, quello che vuoi. Cioè, quando i figli li devi mantenere, non è come una volta, io dico, quando eravamo piccolini eravamo 4 figli, grazie a Dio comunque eravamo in una famiglia che non stava male, la verità, quindi non è che anche se eravamo molti figli, però comunque per quanto magari era un po' più alto della media, come tutto, però comunque eravamo figli del quartiere, capito? Si usciva tutti insieme, i pantaloni, quando non stavamo mio fratello non avevo nessun problema, me li mettevo io, cioè era diverso, capito? I figli prima costavano di meno mantenerli, oggi costano molto di più per mille motivi. certo, io mi ricordo di aver messo a 14 anni, mettevo la roba dismessa da mio padre, cosa che al giorno d'oggi non esiste. Ma perché? Perché sembra quasi che lo fai sentire un emarginato, perché i compagnetti magari sono vestiti di marca, perché comunque i compagnetti vanno a fare equitazione, quindi ce lo devi mandare anche tu. Io il massimo che facevo era quello di andare ai Boy Scout, all'Audax Calcio, che forse tu ricordi, se è vero, come ricordo che sei nato in zona. Sì, no, vabbè, io zona Carmolacci, però ricordo benissimo questa squadra. Sì, ma sono d'accordo con te, guarda, sono d'accordo con te, però no, oggi cosa? Oggi guarda, quando tu sei sposato, se vuoi fare una vita, io poi parto dal principio, se mi sono sposato perché devo fare una vita dignitosa, nel senso che devo mantenere la famiglia, devo avere anche la possibilità di togliermi le mie soddisfazioni o prendersi una casa altrimenti l'epoca, no? E quindi che ne sono, cioè, se no non mi sposavo, io parlo da quel principio, se no non mi sposavo, perché se devo andare e sposarmi e fare il morto di fame, non potrei andare a mangiarmi una pizza, potrei fare, rimane toscato e via, capito? Anche quello, magari tu dici un po' di egoismo, però vuol dire, la vita non è schiavitù, cioè, se ti sposi devi andare a fare a star peggio, se rimani scato, cosa voglio dire. No, il giorno che scopro come si fanno i figli mi li faccio anch'io. Una cosa prima di rilanciare Luca, ma tu in cosa ti sei diplomato? Io ho perito meccanica. All'industriale? No, io ho tecnico industriale meccanica, alle professionali. 3 anni più 2. No, ho capito. Che era, se non sbaglio, non era a Lippunti la scuola? No, era al Monte, in via Grazia Deletta. Dove tuttora? Sì, ancora lì è non so adesso che livello è, quando c'ero io, perché male è un certo livello, e soprattutto la quarta e la quinta, che dovevi prendere il diploma che era equiparato a quello dell'industriale, dovevi studiare, cambiava totalmente. Vai Roger, riprenditi la Luca. Signori, va, è qua. Allora, se non c'è un bottone da farci un giro, che non si può fare, che è troppo caldo, non posso stare ogni volta in doccia. Ci ragioniamo domani, è bello di conversare così, mi piace, ora c'è tranquillità, uno si fa il suo passaggio, se c'è anche domani, questa tranquillità va bene, come faccio due chiacchiere, altrimenti nada, se non c'è casino, non c'è. Con questo passaggio vi auguro buona notte, buona giornata per domani e niente, ciao, bye bye. Fa di Roger, ben sentito, ben ascoltato Luca, mi raccomando adesso che esci fuori non dare fastidio alle signorine. Buon QRT, buon 144 quando lo fai, e ti super cordializza la stazione Grotte, avanti Ace of Cat. Ok, dai, tanti saluti e buon giro in motorino a prendere aria. Io la verità sono qua con l'aria condizionata accesa e con i condizionatori, quindi caldo non ne sto soffrendo, mi dispiace, ma un po' di fresco ci vuole, in moto non posso uscire, per me sono vecchietto, ho una famiglia, mi devo accontentare dell'aria forzata. Ciao ciao, buonissima, ciao ciao. Va bene Fabri, quasi quasi, mi sa che è giunta l'ora. È giunta l'ora, dai, oggi devo andare a letto presto perché ho finito le 6 e domani alle 6 mi devo alzare, è la verità. Poi, giunta l'ora, non è così presto, sono mezzanotte spaccata in questo momento, quindi ben sentito, ben ascoltato anche a te, buon 144 quando lo farai, buon QRT, Antonio Grodde ti saluta. Ok, buona notte Antonio, dai, alle prossime, se domani siamo in tranquillità anche una chiacchierata, un paio d'ore, uno letto, dai, me la faccio, dopo che metto a letto la famiglia. Buon 144, buon QRT e alle prossime. Roger, ciao ciao e un saluto anche ai eventuali ascoltoni che ci sono appunto in ascolto sul canale. Ciao ciao. Ciao.